là. Documenti dal baracchino in furgone. Fammi di luce, bella che ci voleva, eh! Bravo, bravo, bravo, bravo!

Comunque Giovanni, se no, già va bene così. Considerate che la mia antenna è già stata, diciamo così, alla bella meglio. Quando inizia il tempo buono la devo piazzare come Dio comanda, perciò salvateci. Sale, l'automatico va a finire. Come? Chiamo, io ho preparato per questo pranzo. Claudio, tu mi, se mi spassi l'orbita me lo paghi, qua. No, per 45 sto arrivando qua. Vabbè, ma se tu ti metti a casa morale, poi fai a castigarti, e cosa devo fare? Ehi, Gianluca. Stavo dando contro le sante alla radio, fa la cortesia. Ma sei salito di brutto? Cosa fai? È proprio già di rompe, ah? Ok, hai salito di 15 dB di colpo. Ciao Claudio, ciao Luca, e saluto anche Antonio e tutta la componentistica della ruota e anche gli ascoltatori. Correci per me e te la risente magari più tardi. Ciao ciao. Yeah, I don't think I see what I guess. se ci trovo, va. Conferma l'offerta, al momento 6.000 offerte. detto che il soldavole è troppo forte. Quando diceva questo, ci siamo me ne mangio tutti. Allora però facciamo qua. Continua, sì, al ci ho messo 160. Guarda. Come si fa a mettere sui preferiti? Ma non sei Gianni? Non me lo ricordo più già. Ascolto. Non me lo ricordo, ma adesso sì. Non me lo ricordo. Ma c'è già Antonio? Come si fa a mettere sui preferiti? Ha fatto un bianco. Un bianco, anche lui bianco è andato, anche io ieri notte. Quanto vuoi? Ti ho buttato giù un Ma siccome io qua ho visto il prezzo adeguato, però mi riservo di senso l'altro pezzo che mi ha attaccato qua, però a 40 non io. Adesso glielo dico a vedere se mi dà anche questo. Già va, la fine del mondo. La fine del mondo. Cosa vuoi dire? Come abitare la bella? No, l'altro pezzo. Che cos'è? Ciao, ciao, ti sei mai servito. Cosa già va? Ciao, già va. Andiamo le classi che sta controllando tutto, ma se non mi mollano che. La coppia già va, l'S250, che praticamente è il pezzo che si attacca tipo quello della Umiden che ho io, no? Che è tipo il vostro esterno, solo che fa da trasverter, lo chiamano così, che praticamente con un cavetto aggiunge agli HS i 2 metri, quindi da 144 a 148, ma può essere bello per la linea completa, ma a me cosa me ne ha fottio, ne ho del radio che lavorano in 2 metri, no, me ne ha fottio 4 giorni e 3 ore mancavano, 14 offerte a tutti, li ho bruciati. Ti ferma che da guarda, aspetta, non sarei mai una guarda. Ti faccio così, però, poi mi ci piace. Li ho bruciati tutti, cos'è tanto? Sì. Sono detto. Sì, vabbè, ma è una forma così Compra quindi beneficenza. Ma che beneficenza gli va? Ma vai ora, ma se la beneficenza fa qualche essere umano, non è più. Ma che ne dico, soprattutto cazzo gli va la beneficenza, no? Ah, gli si dà fuori, ogni tanto regala 50 euro e niente. No, cazzo, è questo che ci sto, no, è quello con te. Modulando, modulando, mi. mi fa, dove c'è la spedizione, però me li, quello che stavo fatto, ma per me, arriva subito. Ah, ma cosa ha fatto, un contrassegno te lo manda? Sì. Ah, no, pensavo che facevi il portapè. Portapè, quello che vuoi portapè, contrassegno. Nessuna modifica differente, forse stai confondendo con l'altro mobico che era uscito il primo modello, che era più piccolo, che a posto mi sembra di avere l'FM, se sbaglio ci aveva solo M, adesso non vorrei che ti stronzasse. Comunque c'erano tutti i tipi di mobili, uno mi sembrava 120, l'altro dava 200. Infatti Giuseppe aveva piazzato il 45, no, il mobile con 40, poi c'era il 45, l'ultimo, e poi l'ultimo, dalla modifica del mobile c'era il coso, Natalino. Saluto, non conosciuto. Esatto, e quella con la più incasinata la modifica, perché devi fare una frase ben strana. Adesso me lo ricordo più, meno male gli avevo segnato Natalino. Il doppio ha detto, tieni tu la tenere a casa del tuo servo, e già te lo chiedo, già non ci sono problemi. Praticamente sarebbe quello che in tradizione della famiglia, quello che ha anche lo Smith, il 45 mi sembra che sia. Gli hanno fatto tre modelli, gli hanno fatto il 10, il 30, il 40 e il 45. Sì, è proprio così. Sì, in realtà devo modificare, erano più legittimi. Solo che lo sai che rispetto a quando piglia, se li metti in macchina con il caldo della macchina e con quanto scalda il processore camminava solo, via, lo sai, ti cambia camminare da solo. Erano così sicuri, ma la mano me l'ha mai dato, io ce l'ho sempre avuto in macchina. L'unico problema è che mi sente molto degli ultimi per il display. Sì, credo sì, perché l'ho tappato talmente fine che quando più veloce me, come se fosse, quanti posso dire, dando una spillata a uno. Proprio per quello che ho provato lo faccio l'aria calda, però il discorso è che, ripeto, è proprio un indurge, ma quello che noi, come fanno i fusi, il discorso va per paese. Hai finito di grattugiare il formaggio? ciao Claudio, se mi senti, e ci sentiamo più tardi. Vai a Tonè. Ciao Claudio, ci sentiamo. Non me ne sono reso conto, no? acciaio. È come se fosse un ballato d'antenna. Tu vuoi un po' la verità? Sgamato mi aggredo io. La verità sì, solo che non mi dà faccia, non me ne frega niente. Solo quello che senti da Claudio, questo lo dice tutto, questo lo sa. Voi hai detto, ma io mi faccio schiattare, ma ti ho detto molto degradato. No, no, non so a fare il momento quello. Quando stavo grattando mi ha sgamato che ero io. E si nota bene il microfono che è il tuo, cara. La cambierò microfono. Se fai con il microfono amplificato ci nota subito. Fallo che il microfono fa male. Anzi, quello che c'ha la gratta in microfono, quello già va bene alla gratta, mi guarda. Originale microfono. È un microfono del Midland, Antonè. È un originale. Ah, ma sai chi è che vuole entrare? Tu, se qualcuno ha detto qualcosa non ho capito. Mi ha parlato sopra. No, sotto, ma non ho capito cosa abbia detto. Va bene. già va bene, dai, non è che vediamo che ci dica. Questo Luca è diventato una bomboletta. Vediamo cosa scopri. Questa è una bomboletta, io mi vuoi vedere, c'è un gatto secchino, una bomboletta al gioco. Ma una bomboletta è un tolello, lo vedo io. Malacchino, stai usando un bel forte con quella radio. Ma è Mario, questo qua è il Midland, non è il Mubicom. Il Mubicom è a riparare. L'ha preso una pila Mario, bella, la cinesi. Di quella che schiaccia e fa la luce. Altrimenti Mario, magari che c'ha... C'è un tasto, ci sono le batterie, guarda la luce che fai. Quella bianca, la luce bianca, la luce bianca. No, bianca. No, la il coso è trasparente, dai. È bellina, 5 euro. E praticamente l'ho venuta gratis, perché ho fatto un paio di la macchina e li ho recuperati con 5 euro. Venuta gratis. Bene, così io ho pagato 5 euro di bicicletta io. Ci sono due batterie, poi quando le batterie finiscono, schiacci e fa di meno, ne fa di meno di luce, però può sempre servire, no? Beh, quello usavo per andare in campagna di notte, vuole la luce. No, fa la luce micidiale, questo va bene per pescare. Sì, ho detto, vabbè, 6 euro, 6 euro, no, ne ho 5 euro di voi, no, 6 euro, date 5 euro, e dale 1 o 2 euro a me, dale l'euro, no, ne ho, le vuoi 5 euro? E poi alla fine si è arresa e mi ha dato per 5 euro. Si è andato bene allora. KK. Si è andato bene, hai fatto l'affare anche lui. Sì, cazzo, non ti dico. No, mi servivo la pila, Mario, perché ho tre volte, se non è. Vabbè, c'ho la lampada di quelle... Non so, emergenza, la metto a caricare. Però dura poco, se le batterie se ne stanno andando. Insomma, ci vuole sempre una piletta appresso. Sono la rottura di scatto delle batterie, sono di quelle rotonde e piatte. Quindi rivendini. E ci vendi, li vendo. Ehi, ehi, comunque già in gamba, eh? Si andava. Già andava bene. Praticamente mi risulta gratis, dai. Gappa. No, già. No, io ho quelle pile per andare a pescare, quelle che si mettono in testa, tipo i minatori. Andava. La bomba bianco per me, sentiamo dopo che mi sposto un attimo. Se no non concludo niente. A dopo, ripeto, tanto è. D'accordo, bomba bianco, sentiamo dopo allora. E con quale baracchino sta uscendo secondo te, Pompù? Adesso? Dopo. Se non mi sbaglio è cosa questo? L'Inter, che sta qua. No, sbagliato. 40. 3.40, dai, come vogliamo? 3.4 canali, però. No, no, 40 canali, 600. Ah, no, sei tutti chiusi. K, quello là ancora non l'ho provato, mi lo sai. A provarlo? Ehi, adesso... sono fissati dentro il mobile. Pronto. No, la corrente quando accendo si arriva a tutti quanti, capito? Poi dovrò farmi qualcosa per le antenne. Il commutatore, io vabbè, come deve andare a pescare a questo livello, ma ci voglia molto. Mi ha chiesto il PLP, io dico che per cosa? Il commutatore, gli accendi, io, una lupa, sono con una... Ma che ce l'avete che basta, voi dovete fare metterci, cioè fare un rivoli con metallo. Con metallo? Sì, un rivoli con metallo, là, per me fargli come cattò. Diciamo che volendo si potrebbe costruire diciamo, anche senza commutatore, fare metterne 5 o 6 di quelli lì, l'antenna che si attacca lì, quella grande, e poi si attacca tutti quanti i paracchini, senza... quando si va scendi uno, quando non si va scendi l'altro. Sì, io lo so, è difficile da fare. Cacciò l'unico puntatore a 5, in campagna lampante. A te un secondo. Questo essendo giusto. Forse c'hai un po' di QRM tu però, perché io sto uscendo giusto. Controllo se non c'è qualche cosa attaccato. Mi stavo ascoltando, ero che dopo una mattinata intera di lavoro, soprattutto se il lavoro che fa uno è pesante, ci vuole un po' di rilassamento, ma io devo dire la verità, tutti i tantissimi giorni, dopo pranzo, ma mi bastano 10 minuti, sai cosa vuol dire? Proprio 10 minuti di ruggio veramente, anche meno, ma sembra che riposi magari per un paio d'ore, non lo so, è ormai un'abitudine questa da tantissimo tempo, da anni addirittura. Se non mi butto sul letto così mi manca qualcosa, ecco. Se non c'era, si è cercato la fare a casa, non potevo stare un attimo fermo. intanto lo fai con un po' di passione, almeno per i giorni che ti, per il momento che fai, poi magari se lo fai per troppo tempo ti stanca anche quello, è chiaro. Lo faccio così, per il gusto più che altro di fare, soprattutto passi il tempo, ecco, tutto lì, poi quando le si e basta, non se ne parla più, si fa la solita passeggiatina con la famiglia, eccetera, eccetera, capito? Una cosa che di quell'apparato di lezione non è capito più nulla perché per i adesso è troppo generoso, mi sta troppo, tutti non perfetti. Ho capito. Ma stai parlando di uno Smith analogico oppure di quelli digitali con le lucette? Perché si può essere differente, suppongo, anche per quel fatto lì, da un apparato all'altro. Io poc'anzi me li sono passati tutti per accendere, li ho lasciati 10 minuti tutti quanti accesi e guardavo lo Smith. Siccome quelli che ho io praticamente sono tutti quanti analogici gli Smith, no? Devo dire che erano tutti uguali e come segnale erano sempre uguali, perché poc'anzi c'era Mario che modulava e qualche altra persona e confrontavo, l'avevo fatto apposta, proprio quello. Ho detto, beh, adesso li accendo, intanto per farli scaldare un pochino e poi voglio vedere che differenza da un segnale all'altro, ma tutti quanti mi davano lo stesso segnale. Per dire, non è un po' come la quale, come sta arrivando, ma... 9 più 2. No, no. troppo prepotente, perché se no non è piacevole nella modulazione. Questo è il mio modo di vedere e di sentire il microfono, capito? Di sentire l'apparato. Perciò suppongo che anche agli altri possa dare fastidio, come darebbe fastidio a me quando c'è molta ripetizione, capito? Andava ancora meglio, era fortissimo, ma veramente forte. aspetta, fammi pensare. Sì, sul Midland va benissimo, sì. Sì, sul Midland, che sull'Intec l'F più 4 e l'F più 5 sono favolosi, eh. Stop, stop, stop.